Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono dopo un paio di settimane di assenza forzata, voluta grazie al concerto di Bruce Springsteen in quel di Barcellona con conseguente giretto basco. Ritorna in voce, ritorna dal vivo per una trasmissione che si chiama Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica dal vivo ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.25, naturalmente sui 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica, nonché tramite il web con l'apposita app che potete scaricare dal nostro sito radiocittafujiko.it e con la quale potete ascoltarci in ferie, sulla spiaggia, in montagna, in colline, in città, dove volete. E come sempre Città Fujiko Live Club inizia con una novità che oggi è una novità non freschissima, essendo uscita nelle ultime settimane dello scorso anno, ma in questa trasmissione non si fa a gara chi arriva primo, ma appunto si cercano le novità e si propongono le novità per quel che riguarda questa trasmissione. Infatti l'album che ci ascolteremo oggi, come vi dicevo, è uscito sul finire dello scorso anno ad opera di un gruppo che viene da Haledon nel New Jersey, si chiamano tuttora Phillies. È una band che è nata nel 1976, ha avuto un sacco di vicissitudini, cambi di formazione fino al 1992, nel quale si sciolsero, ma nel 2008 si sono riformati e sono tuttora attivi, anche se suonano dal vivo sporadicamente e non hanno tour incessanti come tanti altri gruppi. I Phillies sono una di quelle band molto considerate dalla critica, ma con vendite sempre molto molto relative, purtroppo per loro, che meriterebbero effettivamente di più, perché sono stati dei pionieri di quello che è stato l'indie rock negli Stati Uniti. Come vi dicevo, sono stati diversi sconvolgimenti nella formazione, sia durante il periodo di scioglimento che durante la vita della band. I vari componenti hanno avuto band collaterali. Il loro primo album dopo tanto tempo è uscito appunto lo scorso anno, si chiama Some Kind of Love ed è un album di covers. Sono tutti brani dei Velvet Underground, che è una delle fonti ispirative chiaramente dei Phillies, che a loro volta sono stati fonti ispirativa di altre band tipo R.E.M. O altri. Il tutto è stato registrato in una serata il 13 ottobre del 2018 al White Eagle Hall, sempre nel New Jersey, in occasione dell'apertura del vernissage, si dovrebbe dire, di una mostra interattiva che si chiama Velvet Underground Experience Exhibition, anzi si chiamava perché la mostra è finita. E in apertura appunto di questa mostra suonarono i Phillies e fecero naturalmente tutte covers dei Velvet Underground, che poi sono state inserite in questo Song Kind of Love, che come vi dicevo dopo tutti questi anni è il primo e finora unico album live della band, che si chiama Phillies. Il brano che ho scelto per voi è per aprire questa giornata, questa mattinata di mercoledì 10 luglio 2024, si chiama New Age, loro invece si chiamano Phillies. Oh, Si chiamano Phillies, sono una band che è stata molto molto importante a livello di ispirazione per tante band americane e non solo, però come dicevo non hanno mai avuto un grande successo. Questo brano che ci siamo ascoltati si chiama New Age, è un brano dei Velvet Underground ed è uno dei 18 brani dei Velvet Underground che i Phillies hanno suonato la sera del 13 ottobre 2018 e che hanno pubblicato con questo album che, lo ripeto, si chiama Some Kind of Love. E se i Phillies sono stati l'ispirazione di tante bands, come dicevo prima, i Velvet Underground di più, perché queste sono veramente una di quelle band che i critici che ne sanno pacchi definiscono seminali. E loro sono stati attivi dal 64 al 73, poi si sono riuniti un paio di volte, una volta per un tour addirittura mondiale che li ha portati anche a Bologna il 6 luglio del 1993, quindi in questi giorni, e loro sono sempre stati collegati, anzi sono nati per volere di Andy Warhol, anzi per poi musicare, diciamo così, le operazioni della Factory, che era la grande kermesse che Andy Warhol dirigeva in quel di New York City. Hanno fatto 5 album in studio, ma l'ultimo diciamo che non conta, era solamente presente Doug Yule, che ha fatto tutto lui in questo album, che fra parentesi non era nemmeno uno dei membri ufficiali, dei membri originali della band. Hanno fatto alcuni dischi dal vivo che sono altamente raccomandati, anche se soprattutto i primi hanno una qualità musicale non all'altezza della situazione. Avrete già capito che la prima parte della trasmissione di oggi è dedicata ai Velvet Underground, tramite però altri gruppi, altri musicisti, altri artisti. E se i Phillies hanno dedicato un intero album ai Velvet Underground, c'è chi ci ha pensato prima, esattamente una band olandese che si chiama Betty Servert, spero che la pronuncia sia esatta ma non ci credo. È un quartetto che arriva dall'Olanda, che è attivo tuttora fin dal 1990. L'album, che è il loro primo album, album live ufficiale ed è tuttora l'unico, si chiama Plays Venus in Furs and Other Velvet Underground Songs. Venus in Furs è uno dei grandi classici del Velvet Underground, che fu pubblicato sul loro primo album, che si chiama Velvet Underground and Nico, e che ci andremo subito ad ascoltare. Se vi interessa, sul sito dei Betty Servert ci sono alcuni album live che però sono sold out e forse verranno ripubblicati in un prossimo futuro, ma non è detto. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è proprio Venus in Furs ed è stato registrato al Paradiso di Amsterdam, quindi in casa dei Betty Servert, il 27 novembre del 1997. Venus in Furs. We'll be right back. shall wear her my furs adorn the imperious Severn Sarah away to there. Different colors made of tears. Just the blue of shiny, shiny leather, shiny leather in the dark. The belt that does awaken. Strike, dear mistress, and cure his heart. Seven, seven, speak so slightly. Seven, down on your bended knee. Tis a whip in love not given lately. Tis a whip now. Different colors made of tears. grow. Who cares what it does since you broke my heart? Who loves the wind? Who cares that it makes breezes? Who cares what it does since you broke my heart? Ba, ba, ba, ba. La notte di Halloween del 1994, i Fish, una delle mie band preferite, from Burlington, Vermont, iniziarono una tradizione che dura tuttora e che è stata poi ripresa anche da tante altre jam bands in giro per il mondo, e non solo jam bands, cioè la tradizione di suonare per intero un album di un altro gruppo o di un altro artista. E la prima volta appunto fu nel 1994, il 31 ottobre chiaramente, e poi la tradizione seguita, hanno fatto anche il White Album dei Beatles, hanno fatto Quattro Fine degli U, hanno fatto Remains in Light degli Talking Heads e hanno fatto anche Loaded dei Velvet Underground, arrivando fino al paradosso di inventarsi nell'album di una band che non esiste. È successo qualche anno fa, quando hanno proprio inventato una band a un nome stranissimo e suonato per intero un album che non esiste. È stata veramente una cosa incredibile. Sto ancora aspettando la pubblicazione di quella serata, ma purtroppo ancora non è stata fatta. I Velvet Underground furono omaggiati dai Fish nel 1998 a Las Vegas, Nevada, e il pezzo che si chiama Who Loves the Sun è uno dei pezzi che proviene da Loaded, appunto, album pubblicato nel novembre del 1970, ed è una canzone scritta da Doug Yule, che come dicevo in precedenza è arrivato in seconda battuta all'interno della band e alla fine è rimasto l'unico membro a fare l'ultimo album, che però, ripeto, considerare Velvet Underground è un po' eccessivo. A proposito di Fish, per chi è interessato, notizia notevole: è stato pubblicato Live Bait Volume 21, Cosa Live Bait è una serie di registrazioni live che Fish pubblicano in download gratuito praticamente una volta all'anno, e che comprende improvvisazioni, brani incredibili. Ci sono brani in questo Live Bait 21, ma anche in quelli precedenti, di 20, 25, 33 minuti, una cosa veramente pazzesca, e soprattutto è gratuita. Even some evil mothers can tell you everything is... Un altro gruppo che è stato influenzato, anche se non sembra, di primo acchito dai Velvet Underground, sono tuttora, visto che esistono tuttora, Echo and the Bunnymen, grande band from Liverpool, UK, che ha iniziato la propria carriera nel 1978, e dopo varie vicissitudini, vari scioglimenti, varie riformazioni, è arrivato fino ai giorni nostri. I due leader sono Ian McCallagh alla voce e Will Sergeant alla chitarra. Hanno avuto un grande successo, meritatissimo per quel che mi riguarda, negli anni 80 con i primi album, poi adesso stanno un po' barcamenando. Qui abbiamo un 12 pollici che si chiama Bed Bugs and Ballyhoo. Due pezzi in studio nella prima facciata, 45 giri, tre covers live nella B-side che funziona a 33 giri. Una di queste ce la presenta lo stesso Ian McCallagh. This is Run Run Run by the Velvet Underground.

night, and a good night, and a good night, and a good night, and a good night, and a good night, and a good night, and a good night, and a good night. Just my sister racing, just like sister La voce inconfondibile di Ian Curtis, cantante dei Joy Division, arrivavano da Salford, un sobborgo di Manchester, e durarono dal 1976 al 1980, l'anno in cui Ian Curtis pensò bene di togliersi la vita. Hanno fatto solamente due album in studio, fra l'altro il secondo uscì due mesi dopo la morte di Ian Curtis, si chiama Closer, mentre questo Steel uscì postumo qualche anno dopo, un paio di anni dopo, ed è un'antologia che comprende una parte in studio e una parte dal vivo. All'epoca erano un long playing in studio e un long playing dal vivo. In realtà il long playing in studio si chiudeva con questa covers di Sister Ray dei Velvet Underground, un brano che arriva da White Light White Heat, album del 1968, e tutto registrato al Moonlight Club di Londra il 2 aprile del 1980. Ah, c'è da dire che questo è praticamente un bignamino, perché dura solamente 7 minuti e 37 secondi. La versione originale, lo ripeto, su White Light White Heat dei Velvet Underground durava 17 minuti e 28 secondi. La figura di Nico all'interno dei Velvet Underground è durata pochissimo, solamente il primo album, fu una cosa voluta da Andy Warhol, ma ha sicuramente influenzato tantissime ragazze che vedevano in lei una fonte di ispirazione, oserei dire anche un mito. Una di queste ragazze si chiama Susie Sue e insieme ai suoi Banshees ha fatto spesso delle covers in varie occasioni dei Velvet Underground. Loro sono stati attivi dal 1976 al 1996, poi si sono riuniti per qualche occasione qua e là. A loro volta sono stati una band che ha influenzato un sacco di altre band, soprattutto a livello femminile, soprattutto per quel che riguarda, oltre che per la buona musica, ma anche per quel che riguarda il look. Hanno fatto diversi album in studio e tre album live, più una caterva di singoli, alcuni dei quali con live songs, tipo quello che ci andiamo ad ascoltare adesso. È un singolo di qualche anno fa, oramai molti anni fa, che comprende un brano in studio che si chiama Oh Baby e due brani che sono stati registrati in occasione del K-Rock Acoustic Christmas Show al Universal Amphitheater di Los Angeles in California. K-Rock è una radio importantissima californiana, tostissima, fa della ottima musica. Se andate o quando andrete negli Stati Uniti, in California, sintonizzatevi su K-Rock perché è veramente notevole. Il tutto è stato registrato il 21 dicembre del 1991, appunto è un acoustic Christmas show e comprende questo brano che si chiama All Tomorrow's Party. Ok, is anyone at Lollapalooza? Yeah, this is for all the people who took part in that and for absent friends. will she do when midnight comes around? She'll turn once more to Sunday's cloud and cry behind. Thank you, good night. Have a great time. K-Rock Acoustic Party, un concerto per beneficenza che questa radio californiana organizza tutti gli anni per raccogliere fondi per i non abbienti californiani senza tetto e tutti quelli di cui, che ne hanno bisogno, che sono veramente tantissimi in California. Ospita sempre personaggi di altissimo livello e appunto ha ospitato anche nel 1991 Siouxsie and the Banshees in questa versione acustica di All Tomorrow's Party dei Velvet Underground. A concludere questa piccola rassegna di covers di brani dei Velvet Underground arrivano i Black Crowes, ma prima voglio dirvi che ci sono tantissime covers dei Velvet Underground in giro, sono veramente a livello di decine e decine e decine. Ho detto Black Crowes adesso, ma ho sbagliato, in realtà sono i Cowboy Junkies quelli che stanno arrivando, perché Black Crowes erano in scaletta, diciamo così, ma non ho il tempo materiale di farvi ascoltare, così come non ho il tempo materiale di farvi ascoltare Belle and Sebastian, David Bowie e Rich Robinson, l'altra metà dei Black Crowes, perché il tempo come sempre è tiranno. A concludere, dicevo, questa prima parte arrivano loro, che sono una grandissima band, si chiamano Cowboy Jenkins, un quartetto che viene da Toronto, Canada. Sono tre fratelli, anzi due fratelli e una sorella per essere precisi, insieme a un amico che suona il basso e che è da sempre all'interno della band. Non hanno mai cambiato la formazione, si sono spesso trovati ad aggiungere altri musicisti sia in studio che dal vivo, ma il quartetto è sempre rimasto intatto fin dal 1986. Hanno fatto diversi album live. Quello che ci andiamo ad ascoltare si chiama Walls Across America, è il loro secondo album dal vivo, e questa Sweet Jane, che arriva anche questa da Loaded, album uscito, lo ripeto, nel novembre del 1970, è stata registrata non si sa dove, lo ripeto, l'album si chiama Walls Across America, ma non sono specificate le varie date, ma andiamocela ad ascoltare, perché questa versione particolare di Sweet Jane è diventata praticamente un brano dei Cowboy Junkies, un arrangiamento veramente bellissimo, e col quale concludiamo questa piccola rassegna sui Velvet Underground. Mercoledì 10 luglio 2024, seconda parte di Città Fujiko Live Club, seconda parte che è iniziata con la proposta di oggi, album dei Phillies, band americana, come vi dicevo in precedenza, from New Jersey, che ha pubblicato sul finire dello scorso anno il proprio primo album live, ed è un album di covers di brani dei Velvet Underground. Si chiama Some Kind of Love, è stato registrato al White Eagle Hall di Jersey City il 13 ottobre del 2018, per aprire un'exhibition, una mostra sui Velvet Underground, che si chiamava appunto The Velvet Underground Experience Exhibition. Il brano che ci siamo ascoltati, probabilmente insieme a Sweet Jane, il più famoso del repertorio dei Velvet Underground, si chiama I'm Waiting for the Man, ma loro erano Phillies. Come sempre nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni, e quest'oggi 10 luglio ci sono veramente un'infinità di cose. Capirete che in questa stagione ci sono un sacco di festival, un sacco di concerti all'aperto, un sacco di possibilità per i gruppi di suonare, per i gruppi di artisti di suonare, e quindi ci sono anche molte registrazioni live, ma il criterio di scelta è come sempre quello di un brano per ogni decade. E andiamo ad iniziare con un grandissimo David Bowie. Il suo primo album si chiama semplicemente David Live, è stato registrato al Tower Theater di Upper Derby, che è un sobborgo di Filadelfia, dal 10 al 13 luglio del 1974, nel corso di 3 serate. Il brano che vi propongo non era contenuto nella versione originale in doppio long play, in doppio vinile di David Live, era semplicemente il retro del singolo che fu pubblicato per promuovere l'album. Il singolo era Knock on Wood, che è una cover di Eddie Floyd che è compresa nella edizione originale di David Live. Il retro era questa Panic in Detroit che non c'era appunto sull'album. Ho cercato per anni e anni questo singolo, aveva dei prezzi assolutamente inarrivabili, ma poi in una delle tante ristampe che sono state fatte negli ultimi anni è stato inserito anche questo Panic in Detroit, che ci andiamo ad ascoltare, da David Bowie, registrato in quel di Philadelphia, Pennsylvania, il 10 luglio del 1974. Survivor of the National People's Gang, panic in Detroit. I asked for an autograph. He wanted to stay home with someone we fed. Panic in Detroit. Panic in Detroit. You laughed at accidental sirens. Percussions that followed none too soon. A trickle of strangers, all that we left alive. Panic in Detroit. Asked for an autograph. Wanted to stay home with someone before. Panic in Detroit. Some clothes, I made my way to school. Found my teacher crouching in his elbow rods. Screaming turned and ran to smash my favorite slot machine. Found jumping cars and slept the traffic lights. There were $1 million, made the run back home. Found him slumped across the table. Me and I got alone. Ran to the window, looked for a plane or two. Panic in Detroit, left me an autogram. Let me collect dust with someone would phone. Panic in Detroit. Was panic in Detroit. Panic in chiamiamolo il periodo rhythm and blues di David Bowie, questo caratterizzato fra le altre cose da questo David Live, il suo primo album registrato al Tower Hall, Tower Theater, anzi di Upper Derby in Philadelphia, Pennsylvania, naturalmente il 10 luglio del 1974. Panic in Detroit, il brano che ci siamo ascoltati, come ho detto in precedenza, inedito nella versione originale, era il B-side di un singolo che uscì a suo tempo, era il 1974. Una grande band arriva adesso, almeno per quel che mi riguarda. Si chiamano tuttora Janis Addiction, sono attivi dal 1985 con diverse interruzioni e arrivano e sono l'emblema, oserei dire, della musica di un certo tipo di Los Angeles, California. È stata fra l'altro una delle prime band alternative ad avere un successo a livello nazionale negli Stati Uniti, e questo dovuto a incessanti concerti e anche al fatto che Perry Farrell, il cantante, ha fondato il Lollapalooza Festival, che inizialmente era un festival itinerante ma poi è diventato fisso a Chicago. Il cofanetto che ho tra le mani si chiama A Cabinet of Curiosity, è naturalmente una raccolta, sono tre CD più un DVD, è un'antologia con alcune registrazioni live inedite, che una delle quali ci andremo ad ascoltare. Fra parentesi, il DVD include una registrazione effettuata a Milano per MTV Italy, e quindi è ancora più interessante. Il brano che ci andiamo ad ascoltare si chiama Kettle Whistle, è stato registrato al Variety Art Center di Los Angeles, quindi a casa loro in California, il 10 luglio del 1987. Ce l'andiamo ad ascoltare, Kettle Whistle, loro sono Janis Addiction. Che non parte, adesso vediamo se riusciamo a sistemarlo. Stavolta devo dire è stata colpa mia che ho spinto il bottone sbagliato. Due settimane di inattività portano a questo. Chiedo scusa a voi e a Janis Addiction. Let's go. baby cry. What makes poor baby older than a rich one? Am I you were someone else. Well, I know why we all beautiful. La musica dei Jane's Addiction può essere molto aggressiva o molto particolare, come in questo caso per questa Cat Whistle che ci siamo ascoltati in questa registrazione effettuata il 10 luglio del 1987 in quel di Los Angeles e appartenente a un magnifico cofanetto che si chiama Cabinet of Curiosity, che vi consiglio caldamente. Fra l'altro c'è anche questa cover di One Lotta Love, ma andiamo avanti, arriviamo agli anni 80, agli anni 90, scusate, rappresentati da un quartetto di New York molto molto interessante ma molto sconosciuto, almeno dalle nostre parti credo. Si chiamano Living Color, sono attivi dal 1984, anche loro si sono formati, sono sciolti e riformati diverse volte, hanno un chitarrista eccezionale che si chiama Vernon Reid e delle liriche molto aggressive dal punto di vista sociale, parlano spesso di razzismo e di cose che potete tranquillamente immaginare. E hanno fatto alcuni album live e alcuni CD con diverse live songs, tipo quella che ci andiamo ad ascoltare. Il brano di punta, diciamo così, in studio si chiama Leave It Alone, mentre quello che interessa a noi è il brano dal vivo che si chiama Ignorance is Bliss. È stato registrato al Chance, di un posto incredibile in uno stato di New York che mi rifiuto di pronunciare, il 10 luglio del 1992. Loro sono Living Color. Then it strikes and falls in the wall. garage band like New Orleans, and we do now another song of us that's about Mardi Gras rhythm. Thank you. uno dei tanti tesori nascosti e pertanto sconosciuti della musica italiana. Si chiamano Hotel La Salle, grande grande trio che a volte diventa un quartetto, che abbiamo visto anche in concerto al Castel San Pietro in Blues Festival nel 2007. Loro sono attivi dal 1993, hanno fatto 7 album, di cui 3 dal vivo, compreso questo che si chiama Wild and Alive, e il brano che ci siamo ascoltati è un brano che hanno scritto loro stessi, si chiama Mystic Barefooting. E prima di proseguire vorrei aprire però una piccola parentesi: devo assolutamente sfogarmi, nel senso che ho detto tesori sconosciuti perché tutti fanno in modo che siano sconosciuti. Ci sono trasmissioni televisive, ok, quelle canoniche, Rai, Mediaset, eccetera, non fanno testo, ma quelle che si professano alternative, tanto per non fare nomi, propaganda live, invece di propinarci cose a volte al limite dell'indecenza, dovrebbero dare più spazio a musica italiana tipo questa, anche se cantano in inglese, chiaramente gli Hotel La Salle, oppure i Gang, oppure i Modern City Ramblers, oppure i Cheap Wine, e ne avrei veramente tanti da dire, ma purtroppo rimangono assolutamente sconosciuti. Il tutto, comunque, questo brano, lo ripeto, si chiama Mystic Barefooting, era registrato al Pater's Draft Blues Happening, anche qui la pronuncia è quella che è, a Tilt in Belgio, il 10 luglio del 2006. A concludere questa Record Today di oggi arrivano i King Crimson, tanto per cambiare, direte voi, sì, tanto per cambiare, perché effettivamente sono spesso in questa rubrica, perché hanno tantissime cose registrate dal vivo. Oltretutto dal 2015, in occasione dei vari tour che i King Crimson hanno effettuato, Robert Fripp dava la possibilità sul sito di scaricare una canzone da ogni show, da ogni concerto, e si arrivavano veramente a dischi quadrupli o tripli, come quello che ho tra le mani, che rappresenta le registrazioni del tour europeo del 2018. Non troverete queste cose in vendita, e non so neanche più se ci sono sul sito. Comunque andate a vedere, perché sono tutte molto interessanti, e si tratta praticamente di registrazioni ufficiali. Infatti questa che ci andiamo ad ascoltare è stata registrata al Sentrumskin di Oslo in Norvegia il 10 luglio del 2018, si chiama The Construction of Light, e loro sono King Crimson. Siamo a Oslo in Norvegia al Centrum Machine il 10 luglio del 2018 insieme a King Crimson, che con questa Construction of Light hanno concluso Ricordi Today di oggi. E a concludere invece Città Fujiko Live Club ci penso alla novità che vi ho proposto quest'oggi. Mi fa molto piacere che rimanga un po' di tempo per ascoltare questi Phillies, che difficilmente si ascoltano, con il loro nuovo album, che però è il primo e unico finora album live della loro discografia. E prima però vi ricordo che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica live dai 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica di Radio Città Fujiko, e anche sul web con l'apposita app che potete scaricare gratuitamente dal sito radiocittafujiko.it. E dicevo, vi lascio in compagnia della novità con i Phillies. L'album si chiama Some Kind of Love, 18 covers dei Velvet Underground che non fanno mai male, tipo questa che ci andiamo ad ascoltare, si chiama We're Gonna Have a Real Good Time Together. Stiamo per avere un bel tempo insieme, a goderci insieme questo tempo. Io purtroppo devo dire che invece ce lo siamo goduti al passato. Comunque sono Phillies, ciao a tutti da Nevio, ci sentiamo mercoledì prossimo. If you close your door, then I could last forever. Let the sun shine out and say hello to never. All the people are dancing and we're having such fun. I wish it could happen to me, 'cause if you close. If you close the door, the night could last forever. Leave the wine glass out and drink a toast to never. Or someday I know someone will look into my eyes, say hello, you're my very special one. But if you close, but if you close the door, the night could last forever. Leave the sun shine out and say hello together. All the people are dancing and they're having such fun. I wish it could happen to me, 'cause if you close the door,